Capitolo 22. Il giorno dopo, alle 8, Catherine fu svegliata dalla cameriera che apriva le imposte. Aprì gli occhi, meravigliandosi di averli mai potuti chiudere su un allegro scenario. Il fuoco scoppiettava e alla tempesta della notte faceva ora seguito una luminosa mattinata. Nello stesso momento in cui riprese coscienza di sé, Catherine si ricordò del manoscritto. Non appena la cameriera se ne fu andata, balzò giù dal letto e si precipitò a raccogliere i fogli sparsi sul pavimento in seguito al trambusto di quella notte e immediatamente si infilò di nuovo a letto per godersi il piacere di esaminare lo scritto comodamente. Si rese subito conto che non doveva aspettarsi che il manoscritto fosse lungo quanto quelli di cui aveva letto nei libri e che l'avevano fatta fremere di orrore. Il rotolo, infatti, composto di foglietti sciolti, era di dimensioni insignificanti, molto minori di quelle che in un primo momento aveva immaginato. Incominciò avidamente a leggere una pagina. Il contenuto la fece trasalire. Era possibile, o i sensi la ingannavano? A quanto pareva, non si trattava che di una lista di biancheria scritta in caratteri rozzi e moderni. Se poteva fidarsi dei suoi stessi occhi, quello che teneva in mano era un conto della lavanderia. Afferrò un altro foglio e vide lo stesso elenco con piccole varianti. Un terzo, un quarto, un quinto non contenevano nulla di diverso. Oh, si trovava davanti agli occhi solo camicie, calze, cravatte e panciotti. Altri due foglietti, vergati nella stessa scrittura, riportavano spese poco più interessanti: carta da lettere, cipria per capelli, lacci da scarpe e un preparato per smacchiare i pantaloni. E il foglio più grande, che aveva contenuto gli altri, pareva, dalla prima riga confusa, mettere un impiastro alla cavalla Saura, il conto di un maniscalco. Tale era il mucchio di carte, forse lasciate per negligenza, come ora supponeva, da un servitore là dove lei le aveva prese, che l'aveva tenuta tanto in ansia, che l'aveva sconvolta e privata di buona parte del suo riposo notturno. Si sentiva umiliata fino alla punta dei capelli. L'avventura della casapanca non le aveva dunque insegnato ad avere un po' di buon senso? E scorgendone un angolo mentre si sdraiava, le parve che la casapanca si ergesse accusatrice contro di lei. Vedeva ora chiaramente l'assurdità delle sue fantasie. Supporre che un manoscritto antico di molte generazioni potesse restare nascosto in una stanza come quella, così moderna, così abitabile, o che dovesse essere lei la prima a possedere l'abilità di aprire un secretaire la cui chiave faceva bella mostra di sé nella serratura. Come aveva potuto ingannarsi a tal punto? Il cielo non volesse che Harry Tilney venisse mai a conoscenza della sua stupidità. In gran parte era colpa sua, perché se il secretaire non le fosse apparso così simile a quello descritto da lui, non l'avrebbe minimamente incuriosita. Questa era la sua unica consolazione. Impaziente di sbarazzarsi di quelle odiose prove della sua follia, quelle detestabili carte ora sparse sul letto, si alzò immediatamente e, cercando di piegarle come le aveva trovate, le rimise allo stesso posto nel secretaire, augurandosi sinceramente che nessuna disgraziata circostanza gliele rimettesse mai davanti per farla vergognare anche agli occhi di se stessa. Perché le serrature fossero state così difficili da aprire, comunque, era ancora una cosa strana, dato che ora riusciva a farle funzionare con la massima facilità. Questo fatto rimaneva misterioso e lei si soffermò un attimo su questo particolare allettante e suggestivo, finché non le balenò alla mente che lo sportello potesse essere già aperto e che fosse stata lei a chiuderlo, pensiero che la fece di nuovo arrossire. Uscì il più presto possibile da quella stanza dove il suo comportamento aveva suscitato in lei simili spiacevoli riflessioni, e in fretta trovò la strada per la sala della colazione che la signorina Tilney le aveva indicato la sera precedente. C'era solo Harry, che immediatamente espresse la speranza che la tempesta non l'avesse disturbata, alludendo maliziosamente al tipo di edificio che abitavano, cosa che naturalmente la mise piuttosto a disagio. Per tutto l'oro del mondo non avrebbe voluto che egli sospettasse la sua debolezza, ma incapace com'era di fingere completamente, finì con il riconoscere che il vento l'aveva tenuta sveglia per un po'. Ma oggi è una splendida mattinata, aggiunse, desiderosa di abbandonare quell'argomento, e il vento e l'insonnia sono cose senza importanza quando sono passate. Che bei giacinti, ho appena imparato ad amarli. E come avete imparato? per caso o grazie a un'argomentazione logica? Oh, me l'ha insegnato vostra sorella, non saprei dirvi come. La signora Allen ha tentato in ogni modo, anno dopo anno, di farmeli piacere, ma nessun tentativo ha avuto successo. Finché non li ho visti l'altro giorno a Milsom Street. In genere i fiori mi lasciano indifferente. Ma ora amate i giacinti. Tanto meglio. Avete trovato una nuova fonte di gioia ed è bene avere il maggior numero possibile di appigli per la felicità. Inoltre per il vostro sesso è sempre positiva la passione per i fiori, perché vi induce a uscire e vi fa compiere un esercizio fisico maggiore di quello al quale vi sottoporreste altrimenti. E benché l'amore per i giacinti possa trovare soddisfazione fra le mura domestiche, chissà, una volta suscitato in voi questo sentimento, può darsi che con il tempo arriviate ad amare le rose. Oh, ma non ho bisogno di questo passatempo per uscire. Mi basta il piacere di camminare e di respirare l'aria pura. E quando il clima è buono, passo la metà del mio tempo all'aperto. Mamma dice che non sto mai in casa. Beh, mi fa comunque piacere che abbiate imparato ad amare i giacinti. Quello che conta è l'abitudine di imparare ad amare. Essere portati a lasciarselo insegnare è un dono prezioso per una signorina. Mia sorella ha un modo di insegnare piacevole? L'ingresso del generale risparmiò a Catherine l'imbarazzo di cercare una risposta. I suoi sorrisi e i complimenti indicavano che era di buon umore, ma una gentile allusione alla loro comune abitudine di alzarsi presto non fece sentire Catherine più a suo agio. L'eleganza del servizio e della colazione si impose all'attenzione dell'ospite non appena si sedettero a tavola. E fortunatamente l'aveva scelto il generale. Era lusingato dal fatto che lei approvasse i suoi gusti. Confessò che era una cosetta da niente, che riteneva giusto incoraggiare l'industria manifatturiera del suo paese. Del resto, per lui, per il suo palato poco esigente, il sapore del tè bevuto nella porcellana dello Staffordshire era uguale a quello della porcellana di Dresda o di Sèvres. Questo servizio era comunque piuttosto vecchio, l'aveva comprato 2 anni prima. L'industria manifatturiera era molto migliorata da allora. Aveva visto degli esemplari molto belli l'ultima volta che era stato in città e se non fosse stato del tutto restio a quel tipo di capricci, avrebbe forse provato la tentazione di ordinare un nuovo servizio. Confidava comunque di avere presto l'opportunità di sceglierne uno, anche se non per sé. Catherine fu probabilmente l'unica a non capire l'allusione. Subito dopo colazione, Harry li lasciò per andare a Woodstone, dove doveva sbrigare degli affari che l'avrebbero trattenuto per 2 o 3 giorni. Lo accompagnarono tutti nell'atrio e aspettarono che salisse a cavallo e non appena rientrarono nella sala della colazione, Catherine andò alla finestra nella speranza di poterlo vedere un'ultima volta. La forza d'animo di tuo fratello è oggi messa a dura prova? Osservò il generale rivolto a Eleanor. Woodstone gli sembrerà triste. È un bel posto? Chiese Catherine. Tu che ne dici, Eleanor? Esprimi la tua opinione, dato che le signore possono meglio comprendere i gusti delle altre signore riguardo ai posti e agli uomini. Io credo che l'occhio più imparziale riconoscerebbe che ha molti punti a suo favore. Ci sono bei prati che circondano la casa, che insieme a uno splendido orto è esposta a sud-est. Le mura che la circondano le ho costruite io stesso, dalle fondamenta, circa 10 anni fa, per mio figlio. È una rendita di famiglia, signorina Morland. E dato che i possedimenti del luogo sono quasi tutti miei, potete credermi se vi dico che non sono cattivi terreni. Se il reddito di Harry dipendesse solo da questa rendita, le sue condizioni finanziarie sarebbero già buone. Forse può sembrarvi strano che avendo soltanto altri 2 figli io abbia ritenuto necessario che lui avesse una professione, e certamente ci sono momenti in cui tutti noi desidereremo vederlo libero da qualsiasi impegno d'affari, ma benché io non possa certo sperare di convincere voi signorine, sono certo che vostro padre, signorina Morland, sarebbe d'accordo con me nel ritenere opportuno che ogni giovanotto abbia qualcosa da fare. Il denaro non è niente, non porta niente, un impiego è quello che ci vuole. Vedete anche Frederick, il mio figlio maggiore, che erediterà una proprietà che si estende più di quella di qualsiasi altro cittadino della contea, ha la sua professione. L'effetto solenne di quest'ultima considerazione fu pari alle sue aspettative. Il silenzio di Catherine provò che era irrefutabile. La sera prima le avevano detto che le avrebbero mostrato la casa ed egli ora si offrì di farle da guida. E benché Catherine avesse sperato di esplorarla accompagnata solo dalla figlia, quella Questa era una proposta che la rendeva troppo felice, qualsiasi fossero le circostanze, perché non fosse contenta di accettare. Infatti erano già 18 ore che si trovava nell'abbazia e aveva visto solo poche stanze. Il ricamo che aveva appena preso in mano svogliatamente fu riposto con gioiosa rapidità e in un attimo fu pronta vicino a lui. E quando avessero visitato la casa, egli si riprometteva il piacere di accompagnarla nel parco e nel giardino. Catherine espresse il suo assenso con un inchino. Ma forse le sarebbe piaciuto di più incominciare da questi ultimi. Ora il tempo era favorevole e in quel periodo dell'anno era molto probabile che si guastasse presto. Cosa preferiva? Lui era comunque a sua disposizione. E la figlia? Quale alternativa pensava che avrebbe soddisfatto maggiormente i desideri della sua bella amica? Ma forse poteva indovinare da solo. Sì, era certo di leggere negli occhi della signorina Morland il giudizioso desiderio di approfittare del sole che al momento le sorrideva, invitante. Ma quando mai le sue scelte non erano giudiziose? L'abbazia era sempre lì, sicura e all'asciutto. Egli cedeva incondizionatamente. Solo il tempo di prendere il cappello e in un attimo sarebbe stato a loro disposizione. Lasciò la stanza e Catherine, dispiaciuta e preoccupata in viso, incominciò a esprimere la sua riluttanza all'idea che lui le accompagnasse fuori, contro la propria propensione, credendo per errore di farle piacere. Ma la signorina Tini la interruppe dicendo con un po' di imbarazzo: «Credo che sarebbe più saggio approfittare della mattinata, dato che è così bella, e non preoccupatevi per mio padre, fa sempre una passeggiata a quest'ora». Catherine non sapeva bene come interpretare questo atteggiamento, perché la signorina Tilney era imbarazzata. Forse il generale non voleva mostrarle l'abbazia? Ma la protesta era stata sua, e non era strano che lui facesse sempre la passeggiata così presto? Né suo padre né il signor Allen avevano questa abitudine. Certo era irritante, lei moriva dalla voglia di vedere la casa e le importava ben poco dell'esterno. Oh, se solo Harry fosse stato con loro. Ora non avrebbe saputo riconoscere le cose pittoresche quando le avesse viste. Questi erano i suoi pensieri, ma li tenne per sé e si mise il cappellino, scontenta ma rassegnata. La grandiosità dell'abbazia la colpì comunque più di quanto si aspettasse, quando la vide per la prima volta dal prato. L'intero edificio racchiudeva un grande cortile e i due lati del quadrato, ricchi di ornamenti gotici, si imponevano all'ammirazione. Il resto dell'edificio era nascosto da poggi coperti di antichi alberi o da piante lussureggianti e le ripide colline boscose che si ergevano a proteggere la casa erano belle perfino nello spoglio mese di marzo. Catherine non aveva mai visto niente di simile e tutto le pareva così bello che senza aspettare di sentire un parere più autorevole, d'impulso, espresse audacemente la propria meraviglia e la propria ammirazione. Il generale la ascoltò, approvando e ringraziando, e sembrò che lui stesso avesse aspettato quel momento per farsi un'opinione precisa di Northanger. Toccava ora all'orto di essere ammirato e lui fece strada attraversando una piccola parte del parco. Nel sentire di quanti acri era l'orto, Catherine fu presa da sgomento, dato che la sua estensione era più del doppio di quella di tutte le terre del signor Allen e di suo padre messe insieme, compresi il cimitero e il frutteto. I muri di recinzione parevano innumerevoli e di infinita estensione. Le sembrò che vi fosse un intero villaggio di serre e nei campi lavorassero tutti gli abitanti di un'intera parrocchia. Il generale fu lusingato dall'espressione meravigliata di Catherine, che gli fece capire chiaramente, quasi come le parole che lui subito la invitò a pronunciare, che non aveva mai visto un orto simile a quello. E lui riconobbe con modestia che, pur senza essere minimamente ambizioso in proposito, senza che ci tenesse molto, era davvero convinto che non vi fosse niente di uguale in tutto il regno. Per lui quello era il suo hobby, gli piaceva avere un orto. Per quanto non si curasse molto di tutto quello che riguardava il mangiare, gli piaceva la buona frutta, e se non piaceva a lui, piaceva ai suoi amici e ai figli. Curare un orto come il suo, procurava comunque gravi preoccupazioni. Nemmeno le cure più attente riuscivano ad assicurargli sempre i frutti migliori. La serra di ananassi ne aveva prodotti solo un centinaio l'anno prima. Immaginava che il signor Allen dovesse lamentare gli stessi fastidi. Oh no, affatto. Al signor Allen non importa niente dell'orto e non ci andava mai. Con un sorriso trionfante di compiacimento, il generale si augurò di poter fare lo stesso, perché non andava mai nel suo orto senza sentirsi amareggiato per un motivo o per l'altro, vedendolo sempre inferiore alle sue aspettative. E come funzionavano le serre progressive del signor Allen? E mentre vi entravano descriveva le sue. Il signor Allen aveva solo una piccola serra che usava la signora Allen d'inverno per le sue piante e ogni tanto vi accendeva il fuoco. «È un uomo felice», disse il generale con aria di soddisfatto disprezzo. Dopo averle accompagnate in ogni settore e averle guidate lungo ogni muro di recinzione, finché Catherine fu sinceramente stufa di guardare e di ammirare, accettò che finalmente le ragazze approfittassero di una porta che dava all'esterno e quindi, esprimendo il desiderio di esaminare l'effetto di alcune modifiche apportate recentemente alla sera del tè, le propose come un prolungamento non spiacevole della loro passeggiata. Sempre che la signorina Morland non fosse stanca. Ma dove vai, Eleanor? Perché scegli quel sentiero freddo e umido? La signorina Morland si bagnerà. La via migliore è quella attraverso il parco. Oh, è la mia passeggiata preferita, disse Eleanor. E così penso sempre che sia la via migliore e la più breve. Ma forse ci sarà fango. Era un sentiero stretto che si snodava attraverso un fitto boschetto di abeti scozzesi. E Catherine, colpita dal suo aspetto tetro, era ansiosa di entrarvi e non poté fare a meno, nonostante la disapprovazione del generale, di fare un passo in quella direzione. Egli si rese conto del desiderio di lei, ma dato che aveva già obiettato che il posto gli pareva poco salubre, era troppo gentile per opporsi ulteriormente. Si scusò comunque se non le accompagnava. I raggi del sole non erano troppo allegri per lui, sarebbe andato loro incontro dalla parte opposta. Se ne andò. E Catherine scoprì con sorpresa quanto sollievo le procurava quella separazione. Comunque, dato che la sorpresa era minore del sollievo, quest'ultimo non ne fu intaccato. E lei incominciò a parlare, gaia e spensierata della deliziosa malinconia che quel boschetto ispirava. «Oh, sono particolarmente affezionata a questo posto», disse la sua compagna con un sospiro. «Era la passeggiata preferita di mia madre». Catherine non aveva mai sentito nominare la signora Tilney da nessuno della famiglia e l'interesse che aveva suscitato in lei questo tenero ricordo si mostrò dal mutare della sua espressione e nella pausa riguardosa con cui attese che le venisse detto di più. «Ho passeggiato qui così spesso con lei», aggiunse Eleanor, «anche se allora non mi piaceva come mi piace ora. A quel tempo addirittura mi meravigliava che prediligesse proprio questo, ma ora il suo ricordo me lo rende caro. E non dovrebbe, riflette Catherine, renderlo caro anche al marito? Eppure il generale non è voluto venire. Dato che la signorina Tilney restava silenziosa, si azzardò a dire: la sua morte deve essere stata un grande dolore. Un dolore grande che è aumentato con il tempo, replicò l'altra a bassa voce. Avevo solo 13 anni quando avvenne. E benché soffrissi per quella perdita, quanto ne può soffrire una persona così giovane, non sapevo allora, non potevo sapere veramente che perdita fosse. Fece una breve pausa e quindi aggiunse, con voce molto ferma: Non ho sorelle, sapete? E per quanto Harry, per quanto i miei fratelli siano molto affettuosi e Harry passi molto del suo tempo qui, cosa di cui gli sono molto grata, non posso fare a meno di sentirmi spesso sola. Oh, certo, dovete sentire molto la mancanza di Harry. Una madre sarebbe stata sempre presente. Una madre sarebbe stata un'amica fedele. Sarebbe stata più importante di tutti gli altri. Era una donna molto affascinante. Era bella. C'è un suo quadro nell'abbazia. E perché le piaceva tanto quel boschetto? Forse perché era malinconica? Catherine pose tutte queste domande con sincero interesse. Le prime tre ricevettero una pronta risposta affermativa, le altre due vennero ignorate e l'interesse di Catherine per la defunta signora Tilney aumentò a ogni domanda che ricevesse risposta o meno. Che il suo matrimonio fosse stato infelice ne era sicura. Certo, il generale era stato un marito poco affettuoso. Non amava il sentiero che era stato il suo preferito. Come poteva aver amato lei? E inoltre, per quanto fosse un bell'uomo, c'era qualcosa nei suoi lineamenti che faceva capire chiaramente come egli non si fosse comportato bene con la moglie. Suppongo che il suo quadro, e a Rosia la sua stessa domanda per l'arte consumata con cui la poneva, sia in camera di vostro padre? No, si era deciso di metterlo in soggiorno, ma a mio padre non piacque il modo in cui era stato eseguito e per un po' di tempo non ebbe un posto fisso. Subito dopo la sua morte ho tenuto di tenerlo io e l'ho appeso nella mia camera da letto dove sarò felice di mostrarvelo, è molto somigliante. Oh. Ecco un'altra prova, un ritratto molto somigliante di una moglie defunta che non veniva apprezzato dal marito. Lui doveva essere stato terribilmente crudele con lei. Catherine non provò a nascondere a se stessa più a lungo la natura dei sentimenti che, nonostante tutte le sue attenzioni, egli aveva suscitato in lei fin dall'inizio. E quello che era stato terrore e antipatia era ora un'assoluta avversione. Sì, avversione. La sua crudeltà verso una donna così affascinante glielo rendeva odioso. Nei libri aveva incontrato spesso personaggi simili, personaggi che il signor Allen considerava innaturali ed esagerati, ma ecco una prova evidente del contrario. Aveva appena finito il suo ragionamento quando la fine del sentiero le condusse dal generale e, nonostante tutta la sua virtuosa indignazione, si ritrovò obbligata a camminare con lui, ad ascoltare e perfino a sorridere quando lui sorrideva. Dato che non riusciva più a provare piacere in quello che la circondava, cominciò a camminare svogliatamente e il generale se ne accorse. E preoccupato per la sua salute, il che pareva un rimprovero all'opinione che si era fatta di lui, insistette perché tornasse a casa con la figlia. Egli le avrebbe raggiunte entro un quarto d'ora. Si separarono di nuovo. Ma dopo mezzo minuto Eleanor fu richiamata indietro e ricevette la più severa proibizione di mostrare l'abbazia all'amica prima del suo ritorno. Questa seconda prova dell'ansia di lui di ritardare quello che lei desiderava tanto parve a Catherine particolarmente significativa.